Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Carissimo Oscar, ciao! Eccoci qua in questo giovedì 24 di marzo, giovedì santo. Come andiamo? Benissimo, è giovedì santo e quindi toccano i santi, no? E toccano i santi, lavande dei piedi, ultime cene. Mamma mia, parlare di ultime cene in questi giorni naturalmente fa pensare ad altre cose piuttosto che all'ironia. Sì. Non riesco a fare ovviamente ironia, continuo ad avere nella testa come si deve sentire chi è sopravvissuto, i familiari delle vittime. Però secondo me la grande storia che abbiamo alle spalle ci deve insegnare, Alessandro, anche a fare il nostro mestiere come quello di tutti i giorni, dicendo ce la faremo in un qualche modo, anche se vittime ci sono. Assolutamente, e cadrà. Allora, oggi Santa Caterina di Svezia, figlia a sua volta di Santa Brigida di Svezia, a Roma, andavano a Roma e si convertivano, diventavano sante, per così dire, lungi da me fare ironia, però insomma, quanti santi ci sono tra i re che stiamo citando tutti i giorni? Effettivamente, no? Ma sono tantissime, tu fai notare che ogni tanto un po' di povera gente santa, si compravano la santità. Non vogliamo dirlo, però un po' numerosi, ecco, cioè la santità era solo nelle famiglie patrizie. Non lo so questo. Però oggi c'è anche un santo di cui sappiamo molto poco, un martire in Mauritania che si chiama San Secondino. Ecco, a me San Secondino sta abbastanza simpatico. E tra i santi santi col nome strano di oggi, Timolao, Pauside, Dionigi e Romeo quasi hanno un nome normale. C'è anche San Romolo oggi. San Romolo. Tra gli anniversari, ohimè, oggi nel 44 le Fosse Ardeatine. Nel 1874 nasceva Luigi Einaudi. E oggi è il 90° compleano di Dario Fo. Quindi è vero, auguri, è vero. C'è Fo. Una straordinaria intervista sul Fatto Quotidiano. La segnalo, molto molto bella. Tra l'altro, Oscar, diamo il numero per gli interventi in diretta. Siamo in diretta, ricordiamo, siamo in diretta anche domani. 800 24 00 24. Questo è il numero. Oscar, ti ricordi che ieri abbiamo avuto l'eurodeputato Marc Tarabella che diceva in Belgio tutto a posto, siamo stati efficienti, per carità, non si vuole gettare la croce addosso al Belgio. Però basta vedere poi i giornali oggi. Quanto le fonti di sicurezza di tutti i paesi, molti grandi paesi europei, non solo europei, la Turchia e così via, dicono: beh, veramente vi abbiamo detto di tutto e voi non siete riusciti se non a liberarli quando li acchiappavate, tra voi e gli olandesi, ecco, più o meno. Questo inquieta un pochettino, cioè sentire che sono in fuga, che dovevano essere in carcere, che erano appunto segnalati dalla Turchia, come dici tu, che dovevano, che sapevano i nomi, i cognomi. Ti do la verità, già ieri ci ho fatto anche un'altra trasmissione, però oggi l'idea lanciata dal Foglio Quotidiano e che spiega uno degli ospiti che abbiamo oggi è un'idea un po' provocatoria, ma su cui riflettere. Cioè l'idea provocatoria lanciata dal direttore del Foglio è: ma perché non chiediamo a Israele di commissariare la sicurezza del nostro continente? In tutto il continente, come sai, questo suscita già delle reazioni delle persone. Sì. Però noi effettivamente il primo ospite che tra poco sentiremo è israeliano, perché ci spiegherà come si vive in un paese dove queste cose purtroppo accadono. Adesso un po' meno rispetto a qualche recente passato. Però hanno scandito la vita di quel paese. Come no? Naturalmente, cari ascoltatori, noi non stiamo parlando di dare un giudizio sulle politiche di Israele, sia sotto i governi laburisti, sia sotto i governi conservatori, la politica di Netanyahu, il rispetto ai palestinesi e così via. Noi stiamo semplicemente parlando. Tecnicamente lì c'è un paese che ha dovuto evolvere, svilupparsi, andare avanti nella storia, convivere con attacchi, terrorismo e così via. E da questo punto di vista ci interessa. Non vi chiediamo un giudizio, né lo esprimiamo. Ecco questo. Anche perché, Oscar, forse dobbiamo abituarci a un po' a questo. Cioè è terribile da dire, ma dobbiamo abituarci, come qualcuno ha detto, a pensare che un attentato di quel tipo, un attentato di quelli successi a Bruxelles oppure a Parigi, ma anche ad Ankara, anche ad Istanbul, possano essere, non dico la normalità, ma possa entrare nel novero delle cose che possono succedere prima o poi. E il problema è quello di circoscriverne le vittime, i danni, di scoraggiare, prevenire, essere abili nell'intelligence, nella repressione poi, però mettiamoci in testa, come ha detto adesso Alessandro, la certezza di poterli evitare non l'avremo. Non l'avremo, assolutamente. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire. Non so se l'ospite è già collegato con noi, lo chiamiamo tra un minuto. Però Oscar, poi ovviamente non parleremo solo di quello, più avanti, perché la vita deve anche andare un po' avanti e concentrarci su altre cose. E la vita italiana sgangheratamente va avanti sui suoi consueti binari, poi di arresti di 8 ex sottosegretari per 'Ndrangheta, magari del PD in Calabria. Avremo quest'altro ospite che è il subentra alla testa, alla guida di un'azienda pubblica di trasporto pugliese che per 20 anni è stata coperta dall'omertà politica e che ha regalato 1 milione di euro a chi le amministrava, ai suoi consulenti esterni. Insomma, ci occuperemo dell'Italia che è quella che è. Eh sì, e lì ci sarà da mettersi le mani nei capelli e da non piangere, perché veramente le cifre che sono comparse in questo dossier sono impressionanti. Comunque, caro Oscar, vogliamo allora salutare il professore Eli Carmon, che insegna all'Istituto di Controterrorismo di Herzliya in Israele, è uno dei massimi esperti israeliani di lotta al terrorismo. Professor Carmon, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Perché noi ci chiediamo questo, io Oscar Giannino, stiamo dicendo che forse dobbiamo abituarci a pensare a vivere in città in cui episodi come quelli di Bruxelles, non solo, Parigi, possono capitare. E allora chiediamo a lei come si vive in una società, in un paese, in questo caso, nel suo caso Israele, dove queste cose purtroppo accadono molto più spesso che da noi. Spesso, sì. Sfortunatamente mi pare che la situazione in Europa andrà peggio, perché la lotta militare sul terreno contro il Daesh sta avanzando. Quanto loro saranno più sotto pressione, probabilmente i combattenti stranieri volveranno in Europa, ci sono migliaia, almeno 4-5 mila. E anche il fatto che c'è una decisione strategica del Stato islamico di colpire gli nemici sul loro territorio. Il problema è differente un poco fra Israele e l'Europa, anche perché siamo un paese piccolo, perché abbiamo questa esperienza e anche la popolazione per 40 anni è già abituata, e anche perché ci sono territori molto grandi, diciamo le megalopoli di Europa, le grandi città, sono molto più difficili a difendere e a controllare. E poi c'è il problema politico-giuridico, ci sono 28 stati, ci sono varie giurisdizioni, c'è una tradizione di competizione, falta di coordinamento dentro dei servizi di sicurezza e le polizie. Sì. In Israele, come detto, la popolazione e anche l'establishment, il governo, i servizi di sicurezza, intelligence, la polizia, hanno un'attitudine simbiotica, sapendo che la minaccia è diretta e immediata, e dunque la popolazione accetta, alcuni passi costringono la popolazione, per esempio, a essere controllata in ogni grande supermercato. Questo è interessante, Oscar. Sì. Quindi il controllo, intanto, quello che dicevi tu ieri, no? Un controllo, cioè accettare di perdere un po' delle libertà personali? Non è esattamente perdere la libertà, il fatto che mi chiedono se tengo un'arma o vogliono vedere il mio sacco o la mia la signora, borsa, certo. È un poco, perdiamo 10 secondi o 15 secondi, però nel stesso tempo abbiamo più confidenza. Sì, perquisizione. Del posto. Perquisizione, Oscar. All'aeroporto anche, chiaramente, è molto più stretto tutto questo perimetro dell'aeroporto. Vabbè, chiuso, chi non avesse io dico una cosa: chi non avesse mai preso un aereo della El Al, la compagnia israeliana, io l'ho preso, vi assicuro che è anche un'esperienza, Oscar, è un'esperienza, è un'esperienza, perché le procedure di sicurezza, le domande, le verifiche sono a tappeto. Però io sono dell'idea che, appunto, se tanti paesi nel mondo hanno dovuto studiare e adottare le procedure elaborate da Israele per la sua sicurezza, per diminuire la mancanza di controllo negli spazi aperti al pubblico, compresi quelli degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e così via, si può fare. Non è vero che non si può fare. Naturalmente questo non impedisce poi a dei matti di qualunque matrice di fare gli attentati, però diminuisce il numero dei potenziali esposti alle vittime. In cambio, è vero, bisogna accettare procedure più lunghe. Secondo me il trade-off, cioè il guadagno, c'è, ecco. Però, Oscar, quello che ci sta dicendo il professor Carmone è che chiaramente Israele è uno stato piccolino, è piccolo, e noi siamo l'Unione Europea, quell'Unione Europea dove, scopriamo, non si parlano le polizie, cioè potevano arrestare le persone, invece le fanno andare via. E quindi, ecco, professor Carmon, questo è un grave problema. C'è un esempio europeo molto buono. Spagna è stata colpita nel marzo del 2004, nella grande, più grande fuori per il momento, attacco terroristico nei treni di Madrid. Da questo momento fino ad oggi ci sono stati, credo, 10-15 attentati falliti, perché la polizia in Spagna. E poi sono andato in treno di Madrid a Siviglia, e i controlli, l'entrata alle stazioni di treno sono un poco come negli aeroporti. Dunque hanno appreso la lezione che devono controllare i passeggeri, non soltanto nei aerei, perché hanno avuto anche un attentato meno grave di ETA nell'aeroporto di Madrid. Dunque questo, cioè, più controllo. Quindi la Spagna ha imparato da quel terribile attentato. Io chiedo un'altra domanda. Abbiamo appreso, ogni volta che c'è un attentato apprendiamo che è estesissimo il numero delle enclave musulmane, senza generalizzare, ma considerate dalle forze di sicurezza di diversi paesi europei ad altissima densità filo-jihadista, sono 751 solo in Francia, e che in queste aree in realtà le forze di polizia, l'intelligence eccetera eccetera, esita molto a intervenire con operazioni a tappeto alla ricerca di coloro di cui si sanno i nomi, i cognomi, i parenti, gli amici che sono implicati negli attentati, perché la politica frena. La politica frena per operazioni a tappeto di controllo, perché dice: temiamo la reazione poi di apparire come antimusulmani, come razzisti in generale, e la reazione delle comunità islamiche. Come si fa in questo caso, chiedo al professor Carmon, bisogna frenare gli interventi a tappeto oppure elaborare una politica per la quale, con la parte moderata islamica, qualunque cosa questa espressione voglia dire, si fa un patto per cui loro per primi dicono no, dovete intervenire anche in questi casi per fare operazioni a tappeto? Ma c'è una grande differenza in Israele. Entro la popolazione di origine araba in Israele stessa e quella nei territori principalmente oggi della Cisgiordania, perché ci sono leggi differenti. Nella Cisgiordania ci sono le leggi militari. È una occupazione militare, dunque si può lavorare diverso, e anche perché c'è un'autorità palestinese che ora è responsabile per quasi metà, per le grandi città. E invece credo che l'esempio è la comunità araba palestinese in Israele, e qui c'è un lavoro che non è dei tappeti, un lavoro che il servizio di sicurezza fa attraverso un concetto che si chiama la copertura di base, che implica che si deve sapere in ogni città o in villaggio qual è la situazione diciamo politica, sociologica, economica, e quelli che sono responsabili di ogni regione devono sapere se succede qualcosa di strano. Cioè un controllo capillare. Però è un controllo che non è visibile, e non provoca reazione della popolazione. Per esempio, se parliamo di Bruxelles, il controllo di questa Molenbeek dove Adel Salam è stato per 4 mesi. Non è possibile che non l'hanno saputo per 4 mesi. Eppure è possibile. È la politica belga che per decenni ha praticato quel modello e quindi non se la sente di fare marcia indietro. Anche perché l'alternativa sarebbe dire che la stessa politica belga fosse complice. Siccome lo volevano prendere, evidentemente è stato possibile creare quelle condizioni per cui non era raggiungibile. Ma anche in Francia non sono riusciti, perché non c'è sufficiente personale. Dopo l'attacco al Charlie Hebdo, il governo francese ha deciso di reclutare 2.800 poliziotti e ufficiali di sicurezza che sono stati addestrati, però in novembre già c'è stato un attentato maggiore, perché si deve preparare, reclutare, addestrare e poi mettere in esperienza sul terreno questi 3.000 nuovi poliziotti. È un lavoro molto difficile. No, ma è chiaro, è un lavoro molto difficile che implica, questo vuol dire anche molti investimenti, perché investimenti sulla sicurezza e quindi soldi. Oscar, noi dobbiamo liberare il professor Carmon. Io avrei un'ultima curiosità, che è la questione invece di quando avviene proprio un attentato come quello di Bruxelles. I dettagli sono terribili e sono dettagli che in Israele sono ben conosciuti ogni volta che c'è un attentato, no? Con i kamikaze. In questo caso, cioè, dopo cosa si fa anche per le vittime, per chi è sopravvissuto? Cioè, anche lì uno Stato deve imparare a gestire questa situazione? Sì, in Israele c'è un protocollo nelle grandi città: se c'è un attentato suicida, dopo 6 ore non si vede niente. Non si può vedere nessuna traccia. Gli autobus stanno circolando, tutte le autorità stanno attuando come normale. E chiaramente perché non questo? Perché questo? Perché? Giustamente per mostrare che la vita deve continuare normale. Questo ha un effetto psicologico molto importante sulla la popolazione. Qui anche perché molti conoscono praticamente ogni persona, non si può capitare che non si sanno i nomi delle vittime 2 o 3 ore dopo, quando ci sono familiari non tengono le informazioni, non si pubblica, però sì, la famiglia ha ricevuto il nome del suo caduta, e tutto il paese lo sa. Certo, prima si avvisa la famiglia. Beh, impressionante questa Oscar di 6 ore. Entro 6 ore va tutto, la vita deve riprendere, no? La vita deve riprendere. No, ma soprattutto però vedi, sono regole consolidate, misurate sugli effetti che provocano le procedure. Esattamente. Chiaro. Cioè, noi invece abbiamo cominciato i grandi attentati jihadisti 14 anni fa in Europa e ogni volta riscopriamo le stesse cose. A me questo è quello che lascia senza parole. Cioè, in piccolo, l'elaborazione e lo sviluppo di procedure nuove. Quando avemmo la tragica esperienza del nostro terrorismo interno, fu molto più efficace di quanto sembra avvenire di fronte al jihadismo terrorista in Europa. Noi ringraziamo il professor Eli Carmon, davvero esperto di controterrorismo a Herzliya, il centro di antiterrorismo Herzliya in Israele. Caro Oscar, c'è un ascoltatore, cosa facciamo? Lo recuperiamo dopo la pubblicità? Dopo la pubblicità. Marco da Mantova, stai con noi. Eccoci Oscar, siamo qui. Eccoci qua, credo. Allora, lo so che è difficile dover spiegare alla gente che dobbiamo cedere dei pezzi della nostra vita, avere tempi per però è anche inevitabile, credo. Perché secondo me il bilancio da trarre è che non lo abbiamo fatto abbastanza in questi anni. Esatto, e il mondo in cui dobbiamo vivere adesso è questo. Marco ci chiama da Mantova. Marco, buongiorno, grazie per la pazienza, eccoci qua. Buongiorno Oscar, buongiorno Milan. Eccoci, buongiorno. Io volevo dire una cosa, se è possibile. Il capo dei servizi belgi e francesi dovrebbe essere mandato via a calci, perché tu catturi un terrorista che ti sfugge da 2 mesi, ok, che era poi praticamente a casa sua, diciamo, lo fai parlare con il suo avvocato e oltretutto comunichi alla stampa che questo sta cantando come un usignolo. Invece tu dovevi blindarlo, non farlo parlare con nessuno, torchiargli tutto quello che era possibile sapere e poi automaticamente andavi a prendere i suoi complici. Invece questi si sono dati da fare. In 24 ore hanno pianificato un attentato che magari sarebbe accaduto fra un mese o fra 20 giorni. Cioè solo un ebete può fare un errore del genere. Sì, diciamo, adesso io non sono un esperto, adesso Oscar, comunque se anche l'avessero fatto tra un mese, la differenza che cos'era? No, però effettivamente tutte le altre agenzie di sicurezza e informazione dei paesi occidentali sono unanimi nell'essere rimasti senza parole di fronte al fatto che le autorità belghe diffondevano le notizie sul fatto che stava collaborando Salah e così via. Cioè, stiamo parlando di circostanze nelle quali la pressione politica sulle e i veti della politica belga, che è frammentata, alle autorità di sicurezza di quel paese, prevalgono sulle più elementari misure di cautela, riservo ed efficienza di quasi tutti gli altri paesi. Non sto parlando di quelli più sofisticati, ecco, ma in nessun altro paese sarebbe avvenuta una cosa simile. Esatto. Che infatti si ritrova, per esempio, nelle motivazioni di uno dei tre kamikaze che dice: non voglio finire in cella con lui. Esatto. E fa riferimento esattamente a quello che ha letto sui giornali di quello che sta avvenendo a Salah. Mio Dio. Questo sì. Caro Oscar, adesso dobbiamo cambiare tema, perché vogliamo appunto parlare di cose anche italiane. Tu, tra l'altro, hai già affrontato nelle altre trasmissioni che conduci qui a Radio 24. È una vicenda che io ho letto sui giornali, mi ha sconvolto per le cifre. E vogliamo salutare per questo Andrea Viero, che è il presidente del CDA di Ferrovie del Sud-Est. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Viero. Buongiorno. Colui che ha consegnato il rapporto al Ministero dei Trasporti, che Oscar ha certificato, come possiamo dirlo, quello che inventa, che per 20 anni come è stata gestita questa società. Cioè, quello che in un paese normale dovrebbe essere incertificabile, perché semplicemente in un paese normale non dovrebbe poter avvenire che per 20 anni... sotto gli occhi di tutti c'è l'amministratore delegato, il capo azienda, che per più di 20 anni, invece dei suoi 48.000 euro l'anno di retribuzione, arriva ai 2 milioni perché si autocertifica dei contratti di collaborazione, per così dire, e così via, oppure consulenze per pacchi di milioni a studi di avvocati esterni, magari studi di avvocati guidati da parlamentari europei, in questo caso di Forza Italia, e così via, eccetera eccetera. Nel mentre i poveri viaggiatori e le condizioni del parco circolante a quel paese. Ma infatti, dottor Viero, ci aiuta a capire: è vero che la persona che ha gestito questa azienda, è stata di Luigi Fiorillo, ha preso 13 milioni e 700 mila euro in 11 anni, di fatto? La cifra è questa? Sì, dalle risultanze contabili che abbiamo, dopo una diligence piuttosto approfondita e lunga, sì, ci risulta questo in varie forme. Al compenso base di 48.000 euro, poi parrebbe, senza l'autorizzazione del socio del collegio sindacale, si sono aggiunti questi ulteriori compensi. Ulteriori, insomma, diciamo, non sono bruscolini, 13.700.000 euro. Ma è la cosa più clamorosa, cioè cos'è la cosa più clamorosa? Ci aiuta a capire, ai nostri ascoltatori, le cose più clamorose che ha visto in questa due diligence, ha scoperto di come è stata gestita questa azienda. Guardi, dal punto di vista dei numeri, dei volumi, sicuramente gli aspetti più rilevanti sono dati dalle esternalizzazioni di alcuni servizi. L'insieme dei servizi contabili esternalizzati ha pesato sulla società per circa 80 milioni di euro negli ultimi 10 anni, quelli per i sistemi informativi per 103 e il resto delle consulenze legali, fiscali e quant'altro circa una settantina. I 270 milioni di euro che ne derivano valgono molte volte i 47-50 milioni di euro che nello stesso periodo sono state spese per la manutenzione del materiale rotabile degli autobus. Quindi è fantastica questa. Oscar, cioè, abbiamo capito bene, 47 milioni per far andare i treni e 270 tra consulenze, prebende. Però no? ecco vedi, queste proporzioni danno l'idea di quale fosse diventato in realtà il core business vero, no? Perché se tu determini che una generazione di risorse finalizzata a queste finalità rispetto a quella core, cioè a quella fondamentale del trasporto pubblico locale, vuol dire che quell'azienda di fatto a questo serviva, nelle mani di chi la guidava. La domanda che io voglio fare è vero, ma è davvero possibile tecnicamente, per chi ci ascolta, chi guidava la società si aumentasse la retribuzione con contratti di consulenza per milioni senza che nessuno se ne accorgesse? Lei ci ha detto non è passato per il voto di un collegio sindacale eccetera eccetera, però santo Dio, la cifra è tale che nelle mani di qualcuno, di qualche assessore regionale e così via, quel bilancio ci finiva. Com'è possibile che nessuno abbia mai visto niente? Guardi, in effetti scoperchiare questa pletora di incarichi non è stato facile neanche per noi, quindi onestamente dall'esterno, quando si diceva un bilancio, spese del personale piuttosto che per consulente non era così facile rintracciare, anche perché erano poi ben distribuite tra attività destinate all'investimento, parte corrente. Una risposta è chiara, mancava l'anticorruzione, che è un obbligo di legge e è penalmente anche perseguibile, numero uno. Numero due, evidentemente il sistema dei controlli non c'era o non ha funzionato. A me risulta anche che in anni recenti sia stato segnalato sia dalla regione che da alcuni funzionari l'opportunità di un cambio di passo, ma che in quella fase si sia ritenuto opportuno mantenere la continuità dell'amministratore precedente. L'opportunità di un cambio di passo, cioè, voglio dire, ma mi sembra il minimo. Cambio di passo è una gentile espressione perifrastica, sì, che esatto. Giustamente, no, essendo subentrato alla gestione, grazie a lui in realtà stiamo capendo come pulire la società, Viera utilizza, in realtà noi verrebbe da utilizzare, caro Alessandro, delle espressioni un po' più dure. Ecco. Un po' più dure. No, soprattutto impressionante, cioè che è stato anche poco chiaro per voi e difficile per voi cercare di guardare i numeri. Ricordiamo che questa è stato una società molto difficile. Molto difficile, e le dico subito perché c'era un'azienda al di fuori dell'azienda, e cioè parte importante delle risorse venivano veicolate a società esterne, appunto, incaricate di gestire l'attività contabile piuttosto che sistemi informativi e a consulenti. Poiché questi soggetti avevano un rapporto diretto con l'amministratore unico, di fatto queste attività sono state rintracciabili solo sulla base dei pochi contratti assegnati e ancora presenti in azienda e attraverso le registrazioni contabili, perché quelle non possono mai sfuggire. Quando i soldi escono, da qualcuno vanno, e quindi partendo da là in fondo si è risalito. C'è una cosa, se mi permette, che vorrei segnalare. Sì. Prima avete chiesto che cosa mi ha impressionato di più. Devo dire che al di là di tutti gli importanti mari, fiumi di soldi che sono usciti, la modalità di un incarico mi ha stupito, cioè la società aveva incaricato dal 2003 tre persone, madre, padre e figlio, di prendersi cura dell'archivio aziendale e di ricostruire l'archivio storico. Mediamente nel tempo queste persone percepivano dai 7 ai 9 mila euro al mese, più 15% di rimborso spese generali. 7-9 mila euro al mese a testa? Ovviamente a testa. Questo dal 2003 al 26 gennaio di quest'anno, quando ho revocato gli incarichi, ha implicato il fatto che per questa attività a madre, padre e figlio siano stati erogati 2.900.000 euro. No vabbè, euro. Ma, dai, ma una cosa del genere è incredibile, c'è, cioè, una famiglia che ha vissuto, ma io penso a tutti i pendolari, tutta la gente che prende i treni di queste ferrovie sud-est, sapere che c'è questa famiglia. Infatti l'ultima domanda sarà che prospettive hanno, perché non, qui non ci sono le risorse da per investire e comprare, però com'è, allora, a questa famiglia cosa gli vogliamo fare? Io adesso non voglio fare giustizialismo, è pazzesco. Non dirla così, ma no, ma quello che rischiano secondo le norme attuali è poca roba, cioè questo è quello che dico io, è poca roba, cioè, a me sembra esatto, cioè, almeno che paghino, cioè possono pagare, Viero, possiamo chiedere indietro i soldi? No, immagino che sono contratti regolari. Guardi, le modalità di affidamento di questi incarichi reiterati per molti altri per molti anni senza alcun tipo di forma di evidenza pubblica non sono regolari. Da questo punto di vista però dico quello che sto dicendo ai dipendenti di FSE. È stato un momento molto difficile, perché scavare nel passato così in fretta e così profondamente, anche attraversando fenomeni che per molti anni non si erano individuati, è stato difficile. Le carte, le analisi, le relazioni, le mie e quelle di due subcommissari e quelli di Deloitte, il ministro li ha portati all'attenzione dell'anticorruzione, delle procure di competenza, delle a Roma. Procure, chiaro. Noi abbiamo fatto la stessa cosa a Bari, adesso c'è un percorso che si mette in moto. Vedremo, ovviamente, chiaro. La giustizia ha i suoi tempi, ma è anche inesorabile. Certo. Ma almeno c'è l'archivio? Adesso? Sì, c'è l'archivio. Ah, c'è l'archivio. Beh, insomma, è stato ben pagato, ma c'è l'archivio. Almeno il lavoro è stato fatto. C'è l'archivio. Ringraziamo Viero veramente per il lavoro che sta facendo. Io mi interrogo su un paese in cui per 20 anni si scoprono isole di totale non perspicuità di queste proporzioni. Io sono convinto che ci siano dei meccanismi di collusione molto più ampi di quello che poi le ricostruzioni penali o della Corte dei Conti sul danno erariale ci consegneranno. Cioè, scusa, faccio un esempio. A oggi l'arresto dell'ex sottosegretario Principe in Calabria, guarda caso, per me, come per chiunque abbia amici da quelle parti, quel cognome era nelle telefonate, nei colloqui, eccetera, eccetera, collegato da anni e anni a cose di questo genere. Quindi io che sia tutto compartimentato nel silenzio assoluto ci credo poco. Il problema è che ci sono dei pezzi d'Italia in cui queste cose passano come ma che ci vuoi fare? È così che va esatto, avanti. Esatto. Ecco. Comunque, Andrea Viero, la ringraziamo, ci tenga aggiornati. Ecco, noi la ridisturberemo se scopre altre cose. Anche a nome dei viaggiatori, come è il nostro mestiere fare. Esatto, esatto, soprattutto quello. Caro Oscar, ci sono ascoltatori ancora? Riusciamo a dare voce a Nicola da Como? Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, vi seguo tutte le mattine. Grazie. Volevo dire la mia opinione, mi collego un attimino al discorso dell'esperto antiterrorismo israeliano. Sì. Di prima. Io sono tornato ieri l'altro da Idomeni, che ero già a fare un servizio come fotoreporter a Idomeni, nella zona dei profughi. Ho girato due aeroporti, avevo a tracolla un mio teleobiettivo che è lungo quasi mezzo metro, da distanza sembrerebbe quasi un fucile, la custodia, diciamo, di un fucile, sì. Esatto, non mi ha fermato assolutamente nessuno se non al gate all'entrata, perciò non cambia mai niente. Poi secondo me è sbagliatissimo che i grossi media, anche italiani, televisivi, continuino a far vedere questi filmati propaganda dell'ISIS che si addestrano, che di addestramento militare non hanno nulla, che sembrano i giochi senza frontiere quando saltano. Devo dirti, Nicola, che su questo ultimo aspetto, cioè del fatto che i media italiani sembrano indulgere ha colpito anche molto me, perché quelli sono filmati, concepiti, loro hanno degli ottimi comunicatori, e tenete conto che ISIS genera circa dai 70 ai 100.000 per esempio tweet e segnali sui diversi social mondiali al giorno, tanto per capirci qual è la sua potenza di fuoco. Esatto, però esatto, quella roba lì, perché mandarla in onda in Italia non lo so, perché in realtà è concepita per un altro pubblico, cioè come esibizione muscolare di forza. Se chi li manda in onda pensa che facciano paura a chi li vede in Italia, non credo che sia così. Quindi per me è un mistero, è come fare propaganda agli avversari. È un mistero, però, perché è una propaganda poi assurda, perché fanno di quelle cose che, voglio dire, poi sono gran codardi, perché è facile fare attentati così che gli farebbe anche un bambino di 5 anni. Io vorrei vederli in uno scontro, in un confronto con due unità nostre di Livorno e La Spezia, come andrebbe a finire. Comunque. È così. Niente. Nicola, bene, la ringraziamo per il suo intervento. E caro Oscar, con questo dobbiamo concludere. Giovanni da Novara, concludere. Ci spiace, magari teniamo il numero se domani può, perché domani siamo in diretta, Oscar. Domani noi siamo in diretta, c'è uno sciopero dei poligrafici proclamato in solidarietà per i poligrafici del Messaggero dell'azienda Caltagirone. Quindi domani mattina ci saranno pochi giornali, e ci occuperemo anche un po' più di Italia, perché ci sono tante cose, ci sono le direttive su come si paga il canone in bolletta, è nata la terza banca italiana, Berlusconi si è rimesso gli occhiali neri, novità. Batman. Tante cose, state con noi ovviamente. Ciao Oscar, ciao a tutti.